con Lisa Ferlazzo Natoli della compagnia da casa d'Argilla per parlare del nuovo appuntamento di IF, Invasioni dal futuro, un The Best Of al Teatro Indi a Roma dal 28 agosto al 1 settembre. Lisa, ben trovata. Ciao a tutti e bentrovati anche a voi. Cominciamo descrivendo la realtà, questo oggetto IF. Allora, questo oggetto RIF intanto è arrivato dopo i suoi 2 primi anni di vita a un ciclo invece di 3 anni in cui si è potuto allargare, ha potuto modificare forma, natura, riflessioni. E quest'anno, 2019, chiudiamo questo triennio, questo ciclo. E lo facciamo, diciamo, nei primi 2 anni, come sapete, siamo andati in giro con la sonda Rosetta a sparpagliare in varie zone di Roma, gratuitamente, in certi orari, diciamo, anche solitamente quartieri diciamo, di periferia, per dare anche un servizio alla città, con questa sonda Rosetta, costruita a misura e a forma della vera sonda Rosetta. Abbiamo portato un anno Ballard e l'anno prima invece Anni senza fine di Simak. Quindi c'è stato uno sparpagliamento per i primi 2 anni che si concludeva con una singolarità, con una sera dal vivo ogni volta al Teatro India. Entrambe le sere avevano un inedito, cioè un racconto in più, cioè tutte le persone che avevano osato nella calura romana andare a rincorrere Rosetta che si spostava per la città, poi dal vivo avrebbero trovato un racconto in più. Quest'anno invece torniamo un po' alla casa madre che in questi 3 anni è stata India, no? Anche se soltanto per queste serate diciamo uniche. E in questa casa madre abbiamo deciso di fare un best of, quindi riprendere di tutti questi 5-6 anni di lavoro, di riflessione e frequentazione delle scritture della fantascienza, quelli che sono stati gli oggetti da una parte anche teatralmente, spettacolarmente, semplicemente migliori, e poi quei romanzi, quegli adattamenti che magari hanno reso certe riflessioni sul presente, del presente e di tutti quelli che allora erano futuri possibili e che poi stanno diventando le questioni del nostro presente. Quindi Solaris inevitabilmente, prima il 27, diciamo il 27, scusate il caos, ma facciamo tantissime attività. Il 27 apriremo con una conferenza, con un incontro con Diego Centonze, Dario Gentili, Centonze, neuroscienziato, Gentili filosofo, che ragioneranno intorno alle questioni che solleva Solaris, chi è, come si parla, come traduce le nostre distorsioni, i nostri desideri, l'inconscio che noi stessi quasi non conosciamo, ce lo rimanda anche violentemente. Verranno toccati, ma poi ci torneremo, anche dei temi legati a storie della tua vita di Ted Chiang, che è poi il racconto da cui è stato tratto il magnifico Arrival, perché lì ci sono dei temi che attengono alla costruzione, alla sincronia tra presente, passato e futuro, che accade alla protagonista una volta che dispiega, scioglie, interpreta il linguaggio dell'alieno. E quindi poi torna a noi la questione, cioè come viviamo la nostra vita quando in qualche modo presente, passato e futuro sono per noi una stessa cosa. Quindi apriremo con questa conferenza. Il giorno dopo, il 28 immediatamente, ci sarà Solaris con Benicio Marchioni e poi dirò alla fine tutto il cast che è molto, molto ampio. Il 29 ci sarà Radio Recall, però Reloaded. Radio Recall è una serata che abbiamo già fatto, ci sono racconti di Ballard, c'è un racconto di Shelley, in questo caso c'è questo piccolo gioiello di Philip Dick che è La formica elettrica. Quindi di nuovo gli inediti sono all'interno delle singole serate. La terza serata sarà la Ballardiana, quindi quella che abbiamo presentato l'anno scorso. Perché è stata una riflessione su Ballard che ci ha molto affascinato ed era, facciamo anche un discorso di repertorio, stiamo continuando con IF a produrre cose nuove, il che va benissimo, la logica, come dire, della singolarità dell'evento sono più che benvenute, ma anche la continuità, in modo che gli spettatori possano scegliere quelli che non ce l'hanno fatto l'anno scorso poiché era una sola serata, magari vogliono vedere Ballard e che so, non Radio Recall, del tutto legittimamente. Poi il giorno dopo avremo Blade Runner con Marco Fuschi e poi a concludere la Guida Galattica per autostoppisti, che ormai è diventato un nostro, diciamo, un nostro must, ma anche qui con degli inediti, l'abbiamo ripensata, rilavorata, ci sarà un ospite speciale che è Massimo Ceccarelli, grande bassista insieme a Gianluca Ruggeri e a Ivano Guagnelli, Massimo Ceccarelli che in realtà prima era solo nella Ballardiana. Questa, diciamo, a grosso modo la grande attività, quella un po' frontale, se la vogliamo chiamare così. All'interno poi degli spazi d'India ci sarà la sonda Rosetta, in modo che gli spettatori possano ascoltare liberamente, non a pagamento, tutto il repertorio dischi è vastissimo e si stratifica in mille storie. E ci saranno delle altre cose, tra cui appunto un lavoro sulla grande e bellissima facciata d'India con le scarpe di Palladino, di cui adesso magari passo la parola a Alessandro Ferroni e Maddalena Parise che vi raccontano un po'. Allora inizio a parlare di perché la facciata, dato che in realtà noi abbiamo guardato ancora un po' più indietro rispetto a questi 6 anni. Nel 2009, se non sbaglio, noi abbiamo fatto un primo intervento, una prima collaborazione in questo spazio che si chiamava Urania, da lì tutto è nato, e in Urania c'era una videoproiezione sempre su quella facciata. Ora ci è sembrato bello chiudere con l'esperienza di tutti questi anni, attraversando tutti i racconti che ci hanno abitato, e rimaginare di nuovo, di disegnare qualcosa sulla facciata, chiaramente con una natura diversa, perché anche India si è modificata in questi anni, quindi questa videoproiezione, questo videomapping avrà una duplice natura. Da una parte sarà guardato da tutti gli astanti, tutti gli abitanti di India estate, anche quelli che non vorranno entrare a IFA, e quindi sarà autosufficiente da questo punto di vista. Dall'altra sarà una membrana, cioè una porta per entrare ogni sera nel racconto che avverrà dentro o fuori dal teatro. Abbiamo preso ispirazione, diciamo, dai mondi che ci hanno colpito forse di più, maggiormente li abbiamo sempre rivisitati. Ora magari posso passare la parola alla mia collega che poi ha lavorato moltissimo su queste immagini, penso sia giusto che lo racconti lei. Ciao Maddalena. Ciao. Allora, Alessandro ha già detto benissimo, io posso aggiungere appunto ma solo qualche suggestione, la natura delle immagini. Diciamo sì, appunto, come diceva giustamente Alessandro, sono la creazione di mondi ibridi che non sono necessariamente i mondi che ritroviamo negli autori da Ballard, da Lem, insomma gli autori di cui saranno fatti questi giorni, ma hanno tratto ispirazione. Per esempio ci sono degli strane creature che sono del mondo di ballardiano di Vermilion Sense, quindi sono delle creature che attraversano un po' tutti gli spazi, oppure c'è un richiamo alle città di Ballard, un richiamo alle terre arse sempre di Ballard, di terre d'attesa. Però appunto sono suggestioni, c'è qualche rovina che può rimandare a Blade Runner, delle rovine satellitari, ma che poi non sono in Blade Runner, semplicemente c'è la natura, la pasta dei racconti che ha informato la scelta delle immagini, che però se n'è andata un po' da un'altra parte. E aggiungo una cosa, che c'è questa settimana abiteremo India in modo trasversale e ci saranno varie cose episodiche dalle 18:30, cioè abbiamo invitato delle librerie a mostrare libri di fantascienza, ci sarà una lettura, delle strane letture di Ching e la sonda Rosetta. La sonda Rosetta. Ripartiamo dalla sonda Rosetta. All'interno però di tutti gli spazi di India, dentro e fuori, avvengono varie cose, quando molto grandi, quando con gli spettacoli, cioè ci saranno appunto la guida, i racconti di balla, stadio pre-call fuori, negli spazi esterni dell'arena, e invece solari, seguire, che hanno forse bisogno di un po' più di concentrazione negli spazi interni. In questa articolazione in mezzo ci sarà dove proveremo a fare una sorta di allestimento di tutti i materiali, di immagini che abbiamo raccolto nel tempo con tutti i nostri IF, in modo che le persone possano vederli e farsi un'idea di qual è stata la storia. Invece negli spazi esterni ci saranno delle letture dei Ching, un omaggio chiaramente a Philip Dick, la sua grande passione, e poi ci saranno dei vari banchetti di librerie con cui abbiamo ormai un rapporto di tanti anni, che verranno a portare tutti le loro edizioni di libri di fantascienza, e parliamo anche di rarità come tutte le edizioni Urania, che sono state molto importanti e che si trovano sempre meno. L'ultima notte con la guida galattica per autostoppisti, poi diciamo il si trasformerà in una festa, perché si sposterà dall'arena agli spazi della Ciottolato, dove c'è la grande parete, e Industria Indipendente di Jay Ego, ovvero Diego Siepe, uno degli attori che lavora con noi, faranno una festa danzante ispirata alle musiche, alle atmosfere, ai suoni della fantascienza. E quindi diciamo tutto questo è per quasi costruire una piccola cittadella delle storie di fantascienza, no, che è sempre un desiderio, e anche lavorare assieme al Teatro di Roma per modificare piano piano, sempre di più, India e la sua percezione, ricollegandomi a quello che diceva Alessandro. Ci saranno molti passanti, molte persone casuali che vengono semplicemente a sedersi all'Indiestate a bersi una birra, e lì avranno modo di intercettare, o saranno intercettati, da tutte queste strane piccole singolarità, anche quando non vedessero gli spettacoli. Allora, in chiusura, ci lasci i riferimenti web per tutti i dettagli? Assolutamente, devo dire un'ultima cosa, sì. Che prima della conferenza, scusatemi, ci sarà un walkabout curato da Carlo Infante, dopo la conferenza, scusate, è una passeggiata alla scoperta dei dintorni di India, che in qualche modo porta tutte le riflessioni, le mappe costruite, il rapporto all'immaginario, la costruzione anche delle scritture, fuori in città, riflettendo e camminando insieme a tutti gli spettatori della conferenza. Allora, per quanto riguarda infine i riferimenti web, per prenotazioni potete assolutamente scrivere alla mail lacasadargilla@.com, io non sono molto brava in questo, ma spero di essere stata chiara, @gmail.com, vedete, e si può anche prenotare, credo, sul sito del Teatro di Roma, dal 26 agosto, prima. E in ultimo troverete tutto il programma specifico, anche con degli approfondimenti e tutto il magnifico cast con cui collaboreremo, nella nostra pagina Facebook, che di giorno in giorno aggiorna le informazioni e diventa sempre più specifica. Allora, ricordiamo, IF, Invasioni dal futuro, The Best Of, al Teatro India a Roma dal 27 agosto al 1 settembre 2019. Un saluto e un ringraziamento alla Casa d'Argilla e a Lisa Ferlazzo Natoli. Lisa, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Benissimo, crepi il lupo, un abbraccio a tutti e buona fine estate. Ciao.